America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuto in America 24 da New York, Mario Platero. The Cruz is, quote, Lucifer in the flesh. I have Democrat friends and Republican friends. I get along with almost everyone, but I've never worked with a more miserable son of an expletive. Beh, avete sentito questo newscast? Devo dire, è diventata la notizia del giorno, perché se queste elezioni, se questo percorso tra primarie e caucus era finora coloritissimo, devo dire che ieri ha superato qualunque possibilità di immaginazione, perché come risposta a quello che doveva essere un coup de théâtre, l'annuncio di Ted Cruz, che aveva già scelto addirittura la vicepresidente, quindi una donna, quindi Carly Fiorina, ha risposto, beh, John Boehner, che è stato presidente della Camera, un personaggio serio, un conservatore, che però fu cacciato dalla destra estrema. E cosa ha detto John Boehner? Scusate, perché mi viene da ridere soltanto a pensarci. Ha detto che Ted Cruz è un miserable son of a bitch, come dire, uno spregevole figlio di mignotta. E qui siamo entrati addirittura in termini, diciamo così, non propri della politica americana nell'era pre-Trump. E dopodiché ha aggiunto: Ted Cruz e Lucifero in carne ed ossa. Questa è stata la notizia dominante dal punto di vista della politica. Abbiamo avuto altre cose interessanti sul fronte dell'economia. Perché? Beh, intanto perché abbiamo avuto il dato sul primo trimestre, il dato di crescita dell'economia americana per il primo trimestre, più 0,5%. Devo dire, un dato molto basso, un dato però atteso. La Fed prevedeva lo 0,6, gli analisti prevedevano lo 0,7, più o meno ci siamo. La cosa importante è che resta come termine di paragone per il 2016 un tasso di crescita stimato del 2%. Ma la cosa ancora più interessante dal punto di vista economico è che Barack Obama, in una lunga intervista col New York Times, ha fatto un po' il bilancio della sua gestione economica del paese e ha tratto alcune conclusioni. Dice, ma sì, gli americani in fondo credono di non star bene, però l'economia sta andando bene, e ha fatto una serie di altri commenti. Però vorrei chiacchierare di questo con Giuseppe Sarcina, nuovo corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, beh, insomma, ma ti aspettavi che ci fosse, non so, neanche un boss dei tempi migliori forse si sarebbe spinto a tanto? Che ne dici? Come ti sembra sta politica americana? No, sinceramente non mi aspettavo che, come dicevi prima, un personaggio così compassato, così, diciamo, sobrio come il portavoce, l'ex speaker della Camera dei Rappresentanti, Boehner, uscisse in una maniera così violenta nei confronti di Cruz. Si sapeva che naturalmente non corresse buon sangue tra appunto Boehner e la destra conservatrice, eccetera. Però sinceramente non mi aspettavo delle parole così dure e così anche inusuali, nonostante, diciamo, in questi 5 mesi siamo stati abituati a una campagna perlomeno colorita anche nel linguaggio. Ecco, c'è evidentemente, come dire, un contesto strategico qua, perché se Boehner interviene come intervenuto, sì, magari si è tolto qualche sassolino alla scarpa, però sta preparando magari il terreno come contromossa alla decisione di Cruz di proporre questa sua compagna di corsa, questa donna, Carly Fiorina. Ecco, il tutto nel contesto, immagino, non so se condividi, ma dell'appuntamento elettorale martedì 3 maggio in Indiana. Stato chiave in queste elezioni. Beh, direi che certamente Cruz ha bisogno di fare qualche cosa di più, perché fino adesso la sua offensiva contro Trump non ha sfondato, è stata inefficace, anzi con le sconfitte a New York e poi nei 5 stati del nord-est addirittura ha fatto un passo indietro. Quindi sicuramente la scelta di Carly Fiorina va vista nel contesto di un'operazione indiana che può risultare decisiva. Economia. Avrai seguito queste dichiarazioni di Obama al New York Times, un'intervista a tutto campo. Qual è stata la tua reazione? Come ti è sembrata questa valutazione? Come ti è sembrato questo bilancio di Obama sul suo mandato economico? Innanzitutto mi è sembrato nei toni un bilancio molto sincero, che ricorda il bilancio che lo stesso Obama ha fatto qualche settimana fa in un'intervista ad Atlantic sulla politica estera. È il bilancio di un presidente che si avvia alla conclusione del suo mandato con la consapevolezza di aver fatto delle cose importanti, ma non di aver portato a termine il suo programma, o perlomeno di non essere riuscito a far capire agli elettori americani fino in fondo quali fossero i suoi obiettivi. Ecco, lui appunto fa una serie di considerazioni, dice che Wall Street era contro di lui e che secondo lui non era giusto perché poi l'indice Dow Jones è passato da 6.000 a 17.000, crede che i repubblicani non abbiano alcuna possibilità di mettere in pratica, se dovessero vincere, il loro programma economico, che secondo lui è privo di senso. Insomma, ci sono una serie di considerazioni interessanti. Quella che mi ha colpito di più è una sorta di mea culpa quando dice: avremmo dovuto fare investimenti strutturali massicci negli anni 2012, 2013, 2014, perché avremmo accelerato la ripresa economica, accelerato la crescita dell'occupazione e la crescita dei salari. Ti dico perché mi colpisce questo, perché cosa dovremmo dire noi in Europa, che siamo stati fermi, che non abbiamo fatto neanche la prima parte di quello che ha fatto Obama? Secondo te c'è anche un confronto indiretto con quello che non ha fatto l'Europa? Beh, in qualche modo c'è, nel senso che noi siamo arrivati nel 2015-2016 a quello che, diciamo, Obama progettava nel 2012-2013, quindi un piano massiccio di investimenti che da noi si chiama piano Juncker, poi vedremo quanto sarà efficace, mentre per Obama era una, diciamo, una fase 2 di una politica che in quella stessa intervista il Presidente degli Stati Uniti dice: non sono riuscito a farlo perché il Congresso a un certo punto è passato di mano, è diventato un Congresso repubblicano e quindi mi ha tolto lo spazio politico materiale per portare avanti questa riforma. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americanodibattito.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera, ancora con noi ai microfoni di America 24. Cosa ti viene in mente? Che canzone dedicheresti, vista la giornata, ai nostri ascoltatori? Diciamo che la parola del giorno è questa sub, no? Modo per dire Sun of Beach, se possiamo tradurre in maniera così. Quindi no, c'è una canzone, in effetti, una canzone blues di Nathaniel Redleaf che si intitola proprio così, se non sbaglio. Potrebbe essere questa la canzone Sun of Beach, SOB, che tra l'altro è un termine molto diffuso negli Stati Uniti, nello slang quotidiano. Comunque sì, Sun of a Beach di Redleaf. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, I just can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night, it's can't fit me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Hey, yeah. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.